24 mattino. L'Italia si desta. Buongiorno, buon 27 dicembre 2012. Buongiorno da Gianfranco Fabi. In questa settimana, lasciando far vacanza ad Alessandro Mina, siamo qui a leggere le prime pagine dei giornali in questa prima parte di 24 mattina. Poi nella seconda parte parleremo un po' di politica. Avremo con noi Andrea Olivero, l'ex presidente delle ACLI, una delle persone che, come ha suggerito di dire Monti, è salito, ha deciso di salire in politica, ha deciso di lasciare la sua carica e di affrontare appunto le elezioni, ed fa parte, uno dei rappresentanti più autorevoli di quel mondo cattolico che è alla ricerca anche di una collocazione precisa. Ne parleremo con lui di quali sono le prospettive dell'Italia nelle prossime elezioni. Poi nella seconda parte, alle 8:30, parleremo un po' di queste vacanze natalizie, degli acquisti, dei consumi di Natale, di come sono andati, di cosa indicano appunto sulla realtà italiana, sulle sensazioni, sulle prospettive degli italiani, come hanno acquistato, come stanno andando in vacanza. Ecco, dopo le 8:30, se volete telefonare, vi ricordo il numero verde 800 24 00 24, e fin da subito potrete mandare i vostri messaggi SMS al 349-238-6666. Quindi cominciamo a guardare le prime pagine dei giornali di oggi, anche qualche pagina interna ovviamente, prime pagine che sono tutte più o meno accomunate dall'attenzione che riservano ai temi della politica, cioè la scelta di Monti, una scelta che è decisa appunto sulla sua salita in politica, come ha voluto ribadire, ma che è ancora incerta sul quando, sul come, sul con chi, sul non tanto sul perché quanto sui metodi, sulle strategie, sulle tattiche che Monti userà in queste prossime settimane per appunto fare sì che la sua salita in politica sia poi qualcosa che si riproduce anche in un consenso elettorale e quindi in precise posizioni all'interno del nuovo Parlamento. Guardiamo un po' appunto i titoli dei giornali. Il Corriere della Sera: Monti, piano per la lista unica, gelo di Bersani, resti super partes, Berlusconi attacca. Ecco, come possa restare super partes una persona che fa una chiara scelta politica, forse Bersani dovrà spiegarlo. È un auspicio forse un po' intempestivo, ormai Monti ha fatto la sua scelta, una scelta che ancora va precisata, ma che comunque è una scelta al di fuori della logica, come ha spiegato, della destra e della sinistra, e quindi una scelta che vuole aggregare delle formazioni nuove, cioè riempire un vuoto della politica attuale. Ancora il Corriere della Sera: il suo nome richiamato nel simbolo per le elezioni, il premier su Twitter, giusto spendersi. E il commento, l'editoriale del Corriere della Sera, lo vedremo tra poco, è troppo stato in quell'agenda di Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, e già questo indica una certa critica, degli editorialisti del Corriere ha un'agenda Monti che ha molte prospettive, ha molti scenari, ma ha poche misure concrete. E questo è quanto dice anche Luigi Zingales nel titolo del suo commento sul Sole 24 Ore: sulla crescita solo principi senza proposte. Il Sole 24 Ore ha il titolo di apertura: bonus ricerca e semplificazioni, prime convergenze tra i partiti. Qui si va più sul fronte appunto della concretezza delle cose da fare, e il Sole 24 Ore ricorda appunto di aver lanciato lunedì scorso, ne avevamo parlato, i dieci punti dell'agenda del Sole 24 Ore, delle cose da fare per cercare di risollevare, di far riprendere questo paese. Ecco, questa appunto oggi fa il punto sulle convergenze che ci sono, sulle idee per il paese lanciate dal Sole 24 Ore. C'è un commento del direttore Roberto Napoletano: la nuova ricostruzione e il governo del paese, quindi, che richiama questo commento alla necessità della concretezza, e quindi sottolinea appunto che il Sole 24 Ore darà passo dopo passo, segnalerà incongruenze e ambiguità. Nessuno si illuda però, scrive Napoletano, che la nuova ricostruzione del paese possa prescindere dalla politica con la P maiuscola, cioè da un disegno fatto di visione che possa contare su uomini capaci di sporcarsi le mani e di unire in un solo afflato il respiro ideale e quello esecutivo. Gli elettori, non altri, dovranno riconoscere lasciarli nell'urna, e solo così il paese potrà davvero rialzare la testa. Roberto Napoletano sul Sole 24 Ore, la nuova ricostruzione e il governo del paese. L'editoriale del Sole 24 Ore è di Alberto Quadrio Curzio, è dedicato all'Emilia. Dall'Emilia, un esempio per l'Italia, ricostruzione solidale. Già il titolo dice tutto, il fatto di appunto della ripresa pur difficile in questa Emilia ancora visibilmente toccata dal terremoto, in un'Emilia che comunque si è rimboccata le maniche e pur con molte difficoltà sta riprendendosi. E il Sole 24 Ore ricorda all'interno, c'è una guida alla manovra di fine anno, tutte le novità su Tobin Tax, regole IVA e aumento delle detrazioni per i figli. Un altro argomento che è ancora sulla prima pagina del Sole 24 Ore, così come su molte prime pagine, anche se in piccolo, nonostante la sua gravità, è la strage, nuova strage in Siria, uccisi 21 bambini. Generale Viserta, usate le armi chimiche. Ecco, la Siria è una situazione che si sta progressivamente purtroppo aggravando sul fronte interno, con appunto la volontà del regime di Assad di mantenere il potere a tutti i costi, ma con questi ribelli che non si capisce bene peraltro che posizioni abbiano e se possano veramente costituire un'alternativa reale al regime precedente, che anch'essi appunto sono macchiati di episodi di forte violenza e di tragiche conseguenze sulla popolazione. Torniamo ecco anche Avvenire ha in prima pagina un richiamo alla Siria, l'ombra delle armi chimiche, nuovi massacri e accuse incrociate, e il titolo principale dedicato sia a Monti sfida la politica nel rinnovare, sia al messaggio del Papa, l'appello nel messaggio Urbi et Orbi, che ha richiamato anche il fatto che in Nigeria ci sia stato nel giorno di Natale una nuova strage di cristiani, il germoglio della pace, il Papa, basta violenze, apriamo il cuore a Cristo. Questo il richiamo di Benedetto XVI nel giorno di Natale, ma anche ha parlato poi anche il Papa ieri nel giorno di Santo Stefano. La Stampa dedica il suo titolo di apertura: Monti spinge per la lista unica, Bersani resti super partes, Berlusconi congiura dell'Europa contro di me. L'editoriale, lo vedremo poi nella seconda parte, di Luca Ricolfi, il professore e le due anime del centro. La Stampa ha una grande fotografia, come usa spesso: la vita dell'albero non finisce a Natale. Gli alberi di Natale sopravvivono alle festività, volti vengono ripiantati nei boschi e nei giardini delle città, e c'è all'interno una pagina che spiega le varie iniziative che ci sono sia in Italia sia in Europa sul fronte appunto del non sacrificare questi alberi di Natale, ovviamente quelli veri, perché si sta comunque diffondendo l'uso degli alberi di Natale finti, che vengono messi in cantina e usati l'anno successivo. E ancora sul fronte appunto della politica italiana è il titolo principale di Libero: quanto ci costa Monti, le cinque tasse di Capodanno, aumentano canone RAI, pedaggi autostradali, importo di multe, lettere, pacchi postali, arriva la gabella sui conti correnti bancari e anche il banco posta del 1 gennaio sarà più caro. Cifra per cifra, ecco come l'euro ha impoverito gli italiani e tutti gli europei. Questa è la visione di Libero. Ecco, si tratta di una serie di rincari che sono purtroppo rituale tutti gli anni, questa volta vengono attribuiti alle scelte dell'euro di Monti e appunto della situazione economica provocata dall'ultimo governo secondo Libero. E Libero ha una editoriale del direttore Maurizio Belpietro, che in pratica chiede al professore di lasciare il campo, di lasciare aperta la battaglia ai veri contendenti di questa situazione politica, cioè Bersani da una parte e Berlusconi dall'altra. Il messaggero Monti in campo, sfida di Bersani, gelo del leader PD, vedremo se è super partes. Questo è il titolo che si ripete, questa frase ormai simbolo di Bersani si ripete in tutti i giornali: il PDL non gestisca la campagna elettorale. Tweet del premier: saliamo in politica, sondaggi oltre il 20% verso vertice Casini Montezemolo, vecchi schemi che saltano. Questo è Francesco Grillo, il titolo dell'editoriale sul Messaggero. C'è di spalla sul Messaggero un articolo del ministro della giustizia Paola Severino, questo Natale nell'umanità dolente delle carceri, e dice Paola Severino: il privilegio di essere ministro si è concretizzato per me quest'anno nella possibilità di avere due incontri il giorno di Natale con gli agenti di polizia penitenziaria e con le detenute e i detenuti di Regina Coeli e Re Bibbia. Un privilegio, si chiederà qualcuno, pranzare in carcere in questi giorni di festa? Un privilegio, vi risponderà chiunque abbia esperienza di carcere, della grande umanità che vi si respira. Un'umanità, è ancora Paola Severino che scrive sul Messaggero, che si manifesta nel calore dell'impegno con cui un detenuto condannato per aver ucciso la moglie gravemente ammalata, ponendo così fine alle sue sofferenze, si occupa di scrivere memorie e stanze in difesa di poveri disgraziati che non possono permettersi neppure un avvocato, per chiedere provvedimenti cui in tanti casi avrebbero diritto. Questa Natale nell'umanità dolente delle carceri è il titolo dell'articolo, in pratica del racconto di Paola Severino, ministro della giustizia uscente del governo, appunto uscente di Mario Monti, sulla prima pagina del Messaggero. La Repubblica: Monti vuole la lista unica, il premier su Twitter, saliamo in politica, e Bersani, l'avevo già detto, è già riportato da altri quotidiani, vedremo se sarà neutrale. Anche Repubblica, un titolo sulla Siria, strage di bimbi, usate armi chimiche, così come il foro ha il titolo di spalla dedicato alla Siria: il regime spara sulle code per il pane, è una tattica di guerra. Passa con i ribelli anche il generale Abdulaziz el-Shalal, il capo della polizia militare di Bashar el-Assad. E quindi sottolinea appunto il Foglio: un esercito che non protegge più la popolazione. Il capo della polizia di Damasco, spiega il Foglio, è l'ufficiale più alto in grado ad aver disertato, anche se fonti del regime minimizzano, parlando con la Reuters. L'importanza della sua defezione, avrebbe comunque lasciato l'incarico entro un mese e ha voluto fare un gesto da eroe. L'eroe accusa gli uomini che ha guidato fino a poche ore fa di aver usato qualche tipo di arma chimica contro la popolazione, come i gas velenosi in grado di soffocare e di provocare attacchi epilettici in chi li inala, come accaduto a Homs la scorsa settimana. Le armi chimiche sono il grande dramma appunto della Siria, anche perché sul fronte, se più volte si è detto che se la Siria userà armi chimiche la comunità internazionale, l'ONU potrà intervenire, gli Stati Uniti hanno detto che potranno intervenire se le armi chimiche venissero usate appunto dal regime siriano. Sul fronte dei giornali, diciamo così, di sinistra, l'Unità, Monti prepara la sua lista. La sua lista con Bersani, che dice: si decida, noi andiamo avanti con il nostro programma, equità e lavoro. Il Manifesto ha un titolo, diciamo così, quasi natalizio: scende dalle stelle, con una grande foto di Mario Monti, saliamo in politica, con un paio di cinguetti su Twitter la sera di Natale. Monti si butta nella campagna elettorale e raduna le truppe centriste sotto l'agenda scritta da PD Ichino. Anche peraltro qui aggiungo altri giornali sottolineano, ci sono delle dichiarazioni di Chino che smentiscono di essere stato lui l'autore di alcuni pezzi dell'agenda, ma questa forse è una cosa di secondaria importanza. Bersani lo supera a destra, il Financial Times dice, che cito ancora il Manifesto: sia il vincolo europeo sui bilanci nazionali, l'austerity è una necessità. E come commento alla crisi di governo c'è un articolo sul Manifesto di Silvia Nicolai: così il Colle si è arreso ai fatti. Questo era il Manifesto e adesso sono già le 7:29, dobbiamo fermarci per le notizie del tempo. 24 mattino. Rieccoci qui, ancora buongiorno da Gianfranco Fabio, a guardare le pagine dei giornali di oggi. Abbiamo dato un'occhiata alla prima parte delle prime pagine dei maggiori quotidiani. È rimasto un po' tra un giornale e l'altro il Fatto Quotidiano, che è un titolo completamente diverso dagli altri: Monti, regalo di Natale a banchieri e costruttori. Nel silenzio più assoluto, dice il Fatto Quotidiano, l'ultimo atto del governo tecnico ha garantito ai poteri forti che gestiscono lo scalo di Fiumicino più tasse aeroportuali a carico dei passeggeri. Nel piano il raddoppio raddoppio delle piste, ma soprattutto una cascata di cemento sul litorale romano, affare da 12 miliardi che conviene a troppi, e le pagine 2 e 3 sono dedicate appunto a questo fatto dello sviluppo dell'aeroporto di Fiumicino, e il Fatto Quotidiano lo giudica criticamente, libero di giudicarlo criticamente, ovviamente, perché sarebbe un piacere fatto a chi possiede, chi gestisce lo scalo di Fiumicino, no? Si vede quale possa essere l'alternativa, tuttavia questo lo aggiungo io. Sempre sul Fatto Quotidiano, Crocetta, basta stipendi da 600.000 euro ai funzionari, è una piccola notizia. Crocetta è il nuovo presidente della regione Sicilia, e anche il Fatto ha un richiamo appunto a Monti, il prof sì al nome in lista e al marchio Agenda. Prima di passare, come vi dicevo, a guardare più specificatamente alcuni editoriali, alcuni commenti dei giornali sulla questa famosa agenda Monti, darei un piccolo spazio ad Avvenire, che ci parla appunto del messaggio del Papa, il germoglio della pace, e lo facciamo leggendo un paio di brani di Marina Corradi, che commenta questo messaggio. Non c'è spazio in noi per Dio, ha detto il Papa la notte di Natale, riecheggiando il peregrinare per Betlemme della parte oriente, per cui non c'era posto nell'alloggio. Non c'è posto, aggiunto, perché noi vogliamo a noi stessi le cose che si toccano, la felicità sperimentabile, il successo dei nostri personali progetti. Siamo, ha detto ancora il Papa, così riempiti da noi stessi che non resta spazio per Dio. E commenta ancora Marina Corradi, così nel Natale, giorno spesso ridotto a vacuo sentimentale e fiaba per i bambini, la voce di Benedetto XVI ha chiamato una conversione del cuore inteso in senso biblico, cioè sentimento e ragione insieme. Cioè ragione non ristretta, come è stata a molti di noi insegnato, a facoltà che misura soltanto ciò che si può pesare, esplorare, dimostrare, ma una ragione invece allargata, che non neghi la possibilità che qualcosa la trascenda e venga prima e vada oltre il pensiero dell'uomo e la natura stessa della materia, per quanto la conosciamo. Lasciatevi trasformare, domanda la frase della lettera ai Romani proclamata l'altra notte in San Pietro. Aprite la porta, lasciate che sia lui a operare. Esortazione, cui fa seguito dell'omelia quel forte transeamus pronunciato dal Papa e da lui stesso tradotto come andare di là, osare il passo che va oltre, osare la traversata delle nostre abitudini in là, verso l'essenziale, verso il Dio che in Cristo si è fatto bambino, ha spiegato Benedetto, perché sa che il suo splendore ci spaventa, un Dio che alle soglie del mondo si è presentato come un figlio appena nato, di cui nessuno ha paura e che è istintivo accogliere ed amare. Questo era Marina Corradi sulla prima pagina di Avvenire, appunto, che richiama all'essenzialità del guardare alle cose che vanno oltre i piccoli fatti quotidiani, anche se sono fatti quotidiani che ci condizionano, che condizionano la nostra vita, che condizionano le nostre scelte, e vediamo come condiziona le nostre scelte. Adesso arriviamo appunto agli editoriali dedicati al governo uscente e alle proposte dell'agenda Monti. Vi dicevo che ci sono vari, soprattutto sui maggiori quotidiani, varie critiche alla questa agenda. Troppo stato in quell'agenda è proprio l'editoriale di Alberto Alesina e Francesco Giavazzi sul Corriere della Sera. Per diminuire in modo significativo la spesa pubblica, scrivono i due professori, e quindi consentire una flessione altrettanto rilevante della pressione fiscale, è necessario ridurre lo spazio che lo Stato occupa nella società, cioè spostare il confine tra attività svolte dallo Stato e dai privati. Limitarsi a razionalizzare la spesa all'interno dei confini oggi tracciati, la cosiddetta spending review, non basta. Nel 2012 il governo ha tagliato 12 miliardi di euro, altri 12 miliardi di risparmi sono previsti dalla legge di stabilità per il 2013. Troppo poco, scrivono Alesina e Giavazzi, per ridurre la pressione fiscale. Abbassare la spesa a livello della Germania, di 4 punti inferiore alla nostra, richiederebbe tagli per 65 miliardi. Per riportarla al livello degli anni 70, quando la nostra pressione fiscale era al 23%, si dovrebbero eliminare spese per 200 miliardi. 44 miliardi. E concludono Aresina Giavazzi dopo questa analisi. Insomma, a noi pare che il programma di Monti sia troppo statocentrico e non punti abbastanza al ridimensionamento dell'intervento pubblico. Con un debito al 126% del reddito nazionale e una pressione fiscale tra le più alte del mondo, non si può sfuggire al problema di ridisegnare i confini tra Stato e privati. Illudersi che sia sufficiente riqualificare la spesa con la spending review rischia di nascondere agli italiani la gravità del problema. E quindi all'interno di questo articolo poi ci sono ovviamente esempi concreti sull'istruzione, sulla sanità, su come appunto lo Stato dovrebbe fare dei passi indietro riducendo il proprio impegno in questi settori, ma dando più spazio ai privati, riducendo ovviamente parallelamente anche la pressione fiscale, in modo da lasciare ai cittadini la possibilità di stipulare per esempio delle assicurazioni private o di finanziare lo studio dei propri figli, due cose che devono andare insieme. C'è troppo Stato in quell'agenda, dicono Aresina e Giavazzi, però io potrei aggiungere c'è ancora molto più Stato nelle altre agende, quelle di Bersani e di Berlusconi da una parte e dall'altra. Ugualmente critico anche Luigi Zingale sul Sole 24 Ore, sulla crescita solo principi senza proposte, e l'agenda Monti si fece carne, dice qualcuno, con qualche ora di anticipo su Santo Natale, la buona novella centrista è apparsa sul web. 24 pagine di linee programmatiche divise in 4 capitoli, Europa, crescita, welfare, e un interessante cambiare mentalità e comportamenti. A grandi linee, scrive Luigi Zingales, le proposte sono assolutamente condivisibili, in alcuni casi come quella della scuola addirittura rivoluzionarie per l'Italia. Ma l'agenda è priva di contenuti, di numeri e di dettagli. Più che un programma economico di rilancio, è un manifesto politico che rigetta le posizioni delle estreme, Berlusconi e Vendola, per ritagliarsi un grande spazio al centro. E conclude Luigi Zingale, se un'altra volta l'agenda liberale viene usata come foglia di fico per difendere gli interessi di pochi, a soffrire non sarebbe solo l'economia del nostro paese, ma la sua stessa democrazia. Quindi l'invito di Luigi Zingale è quello di riempire questa agenda, questi principi, di cose concrete, ma anche di fare delle scelte ben precise su chi dovrà portare avanti queste decisioni, queste scelte, queste proposte, e superando appunto le forme tradizionali del partito padronale da parte e del partito organizzazione dall'altra, e cercando di, dice appunto Zingase, di creare la migliore strategia degli investimenti è appunto quella di metterli in mano dei partner, a delle persone responsabili e credibili. Non si può parlare, dice Zingales, credibilmente di trasparenza dei finanziamenti ai partiti con chi non ha oggi la massima trasparenza sui suoi finanziamenti. E quindi una piccola ma esplicita critica a come sta creandosi, appunto, come sta andando avanti questa agenda Monti, e soprattutto questo partito che ancora non c'è e non si sa bene che forma abbia, e lo specifica molto puntualmente con la sua consueta appunto chiarezza Luca Ricolfi sulla Stampa, il professore alle due anime del centro. Scrive Luca Ricolfi, ci vorranno ancora alcuni giorni prima di conoscere le scelte del Presidente del Consiglio. Nella conferenza stampa di fine anno, infatti, di fronte alle domande dei giornalisti sulle sue intenzioni politiche, Mario Monti ha risposto in perfetto stile democristiano. Una performance da far morire di invidia il buon De Mita. Nessuno ha capito se resterà neutrale, scenario A, se farà una lista Monti più o meno collegata con le liste affini, scenario B, o seguirà un listone unico che assorbe tutte le formazioni del centro, scenario C. A prima vista, scrive Luca Ricolfi, i tre scenari non differiscono troppo tra loro, se non altro perché in tutti e tre il Presidente del Consiglio si terrebbe prudentemente a distanza dei due schieramenti della conservazione, la destra guidata da Berlusconi e la sinistra guidata da Bersani. Ma questa affinità tra i vari scenari non deve trarre in inganno, perché le conseguenze elettorali prevedibili nei tre casi sono molto diverse. E appunto Luca Ricolfi analizza questi scenari, analizza il fatto appunto di quale effetto elettorale potrà avere se Monti sceglierà l'una o l'altra strada. E proprio perché una cosa è cercare voti separatamente, una cosa è cercare i voti tutti insieme. E dice, per capire il meccanismo di questa divisione, di questo fatto che non sempre 2 più 2 fu 4 in politica, ecco, per capire il meccanismo, spiega Luca Ricolfi, occorre però partire da una premessa. Mentre il centro politico vede il centro come una realtà sostanzialmente omogenea in quanto luogo che sta a metà tra la destra e la sinistra, l'elettore di centro vede il centro stesso come una realtà bifronte. Cioè il centro inteso come luogo della moderazione, della prudenza, del gradualismo, del senso delle istituzioni, e c'è il centro inteso soprattutto come luogo del cambiamento, delle riforme radicali, della rottura degli equilibri del passato. Questi due centri sono entrambi rispettabili, ma sono difficili da tenere insieme perché diffidano l'uno dell'altro. E fanno bene, perché su quasi tutte le cose che contano hanno priorità diverse e difficilmente conciliabili. Ecco perché lo scenario B e lo scenario C possono sembrare simili, ma non lo sono affatto. Nello scenario B, più liste montiane, ogni centro mantiene la sua identità e i voti tendono a sommarsi. Nello scenario C, lista unica a guida Monti, moderati e radicali si fondono e i voti tendono a dividersi. Il tutto è meno della somma delle parti. È già successo con socialisti e comunisti, con ex democristiani ed ex comunisti, con socialisti e socialdemocratici e persino con liberali e repubblicani. Nonostante i due partiti fossero diventati due gocce d'acqua, non c'è ragione di pensare che non succederebbe di nuovo se Monti decidesse di tenere sotto il medesimo tetto anime tanto diverse, la vecchia politica dei moderati, Casini e Fini, le scalpitanti truppe della società civile desiderose di cambiamenti radicali. E conclude Luca Ricolfi, e concludiamo anche questa parte della rassegna stampa. Che cosa farà Monti? Non lo sa nessuno, forse nemmeno lui. La mia impressione è che alla fine Monti scarterà lo scenario B, quelle delle molte liste, e finirà per optare per lo scenario C, quello della lista unica dei centristi. In questo caso dovrà essere molto bravo perché avrà tre avversari: la sinistra, egemonizzata dalla CGIL, la destra, ipnotizzata da Berlusconi, e la diffidenza reciproca tra le due anime del centro. E quindi si conclude qui Luca Ricolfi, appunto sottolineando la difficoltà dell'impegno di Monti, una difficoltà innanzitutto nel mettere insieme queste anime del centro, ma poi anche nel presentare un programma credibile, capace di unire appunto le diverse anime. Ci fermiamo un attimo per le notizie sul traffico. Eccoci qua ancora per completare per quanto possibile la lettura dei giornali. I giornali hanno tanti elementi diversi, tante cose al di là appunto di quello che abbiamo parlato dell'agenda Monti, che comunque è la cosa che interessa di più, giustamente perché riguarda il nostro futuro e quello dei nostri figli. Un'occhiata alla Gazzetta dello Sport, parto ma con la R che è bianca mentre le altre lettere sono rosse. Si parla di Pato, c'è l'offerta Corinthians, ok, di Galliani, si chiude a gennaio. Il giocatore del Milan, 23 anni, che ha creato tante illusioni, possiamo forse dirlo, tanti problemi per i suoi guai fisici, un grande artista del calcio, ma appunto non ha trovato l'accordo con gli altri compagni e con la squadra. La firma per 15 milioni sulla vendita dovrebbe arrivare a Capodanno, cessione di Robinho, lo sprint è tra il Santos e l'Atletico Mineiro. E quindi qui si parla del Milan, è la Gazzetta dello Sport. Torniamo però a parlare di altre cose che ci toccano da vicino. Il Messaggero ci ricorda come nel 2013, tra pochi giorni, saranno più cari i francobolli e il canone Rai. Ecco, forse i francobolli li usiamo un po' meno del passato, però li usiamo, e scrive il Messaggero e ce lo ricorda, dove 2013 deve ancora iniziare ma si presenta già come un anno di rincari, almeno per chi deve spedire una lettera a chi paga il canone Rai. Già, perché a partire da gennaio, se spedire una raccomandata costerà 30 centesimi in più, cioè 3,60 euro, per inviare una lettera si dovranno aggiungere 10 centesimi, da 60 a 70 centesimi. Più caro anche l'invio di corrispondenza all'estero, far arrivare una lettera in Europa, nel bacino del Mediterraneo, costerà 85 centesimi contro gli attuali 75. La delibera di approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane a dire che il ritocco interesserà varie voci del tariffario postale. Per molti che ormai preferiscono l'utilizzo dell'email alla vecchia lettera da affidare al postino, si tratta solo di mettere agli atti una volta di più che utilizzare il PC, il personal computer, può fare risparmiare. Ma chi è affezionato alle vecchie lettere, e per quanti la raccomandata è uno strumento quotidiano di lavoro, 10 o 30 centesimi di rincaro non sono pochi. E poi anche il Messaggero, così come altri giornali peraltro, ci ricordano che per pagare il conto della RAI, cioè la tassa sul possesso della televisione, ci vorranno 1,50 euro in più, cioè 113,50 euro, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, ma c'è tempo, fino al 31 gennaio per pagare questa tassa, che è un canone ma è praticamente una tassa. Avvenire ci ricorda il terremoto, le storie di Avvenire, Emilia ferita dal sisma, Natale messe in tensostruttura in casette di legno per una terra devastata rimasta con poche chiese, ammirandola. Pure il presepio è circolato da transenne, organista in concerto a San Felice sul Panaro in mezzo alle macerie. E il conforto di Don Carlo, parroco di Mirandola, possiamo comprendere meglio la sua vicinanza. Nelle piazze, famiglie in festa, tra giochi coi bimbi e la ricerca di normalità a sette mesi dal disastro, proiettata sulla facciata della Chiesa del Gesù, una composizione di immagini a tema religioso. Ecco, vi ricordavo che anche l'editoriale del Sole 24 Ore di Alberto Quadriocurzo era dedicato all'Emilia, la solidarietà che si è concretizzata nella costruzione dell'Emilia Romagna e delle sue zone contigue colpite dal sisma del maggio scorso è un esempio da evidenziare nel concludere il 2012, sono parole di Alberto Quadriocurzo sul Sole 24 Ore. La regione Emilia-Romagna, alla quale ci riferiamo in prevalenza, sia perché supera il 90% dell'area colpita, sia per omogeneità amministrativa, ha avuto una grande capacità istituzionale, sociale ed economico-imprenditoriale, unendo rapidità e rigore, efficienza e altruismo. È un esempio di etica civile e di competenza che va meditato e che tutti dovremmo avere per la ricostruzione del nostro paese, che non è fuori dalla crisi, anche se ha evitato un crollo finanziario. Il sisma, è ancora Alberto Quadriocurzo sul Sole 24 Ore, ha colpito un'area dell'Emilia di 550.000 abitanti, con alta densità di popolazione e di attività economica in 33 comuni del cratere, con 48.000 unità produttive. Riferendosi all'area del terremoto, che comprende più comuni anche in altre regioni, si arriva a 760.000 abitanti. I danni all'edilizia abitativa, agli edifici pubblici, storici, artistici o religiosi, alle infrastrutture e alle attività produttive sono stimati per tutta l'area colpita in 13,27 miliardi. I danni sono tuttavia maggiori, non solo per le vite umane perse, che non hanno prezzo, ma anche per quelli sociali e per quelli economici indiretti, per le interdipendenze produttive. La ricostruzione era ed è dunque un'operazione molto difficile e non solo una questione di risorse finanziarie. Accenneremo a questa per concentrarci invece sulle risorse umane, operanti in modo organizzato nelle istituzioni, nella società e nell'economia in cui vive una buona democrazia. Ecco questo articolo di Alberto Quadriocurzo per ricordare appunto che la politica è fatta di passione, è fatta di condivisione, è fatta anche di solidarietà, è fatta anche di capacità di andare oltre quelle che sono le procedure, quelle che sono gli atti amministrativi per cercare appunto di realizzare veramente qualcosa di costruttivo per l'intera società. È una società che appare dispersa, che appare appunto non tanto alla ricerca, forse più nella dispersione che nella ricerca. Per esempio vi cito un articolo della Stampa: allarme negli Stati Uniti, un bambino su tre cresce senza padre. Che fine hanno fatto i padri? Dove si sono nascosti? Sono domande che diventano urgenti leggendo i dati che arrivano dall'America e dall'Europa. Negli Stati Uniti il numero dei bambini che crescono senza il genitore maschio è salito a 15 milioni, ossia circa uno su tre. In Gran Bretagna invece avere un padre risulta nella top dei 10 regali chiesti a Babbo Natale, una curiosità che però dice parecchio. E come crescono poi questi bambini senza una figura paterna che li porti a giocare o li segua nei compiti? I dati degli Stati Uniti, raccolti dal Census Bureau e dall'American Community Survey, sono impressionanti. Non solo i figli che vivono senza i genitori maschi sono arrivati a 15 milioni, ma la tendenza è in aumento. Nel 1960 solo l'11% dei bambini degli Stati Uniti non aveva il padre, mentre ora siamo intorno al 35%, con un incremento di 1,2 milioni di casi durante l'ultimo decennio. I figli che crescono senza la madre, invece, sono circa 5 milioni. Ecco, è un dato sicuramente su cui riflettere, sui cambiamenti sociali, sulla disgregazione di un certo modello di famiglia, ma che comporta indubbiamente delle ripercussioni molto gravi sul fronte della crescita, sul fronte dell'educazione, sul fronte della partecipazione anche dei figli alla vita sociale e soprattutto nella loro propria identità. Un argomento di completamente diverso, saltiamo un po' di palo in frasca, come si usa dire, quello riportato dalla Repubblica, rompicapo rotatorie, un italiano su due va in tilt all'incrocio. Ecco, c'è stata negli ultimi anni una forte crescita della costruzione di queste rotatorie che hanno sostituito negli incroci, soprattutto negli incroci più pericolosi, i semafori. Ecco, sono rotatorie che dovrebbero rendere, che rendono sicuramente più fluida la circolazione, però che impongono delle regole un po' diverse, perché per esempio bisogna dare la precedenza a chi è nella rotatoria e non, come tradizionalmente avviene negli incroci normali, a chi viene da destra. Spiega appunto Vincenzo Borgomeo su Repubblica, anche queste regole sono difficili da essere appunto prese e vissute in maniera perfetta da quanti guidano, tanto che addirittura si dice che il 55% di chi guida, quando affronta una rotatoria, non sa bene che cosa fare, e quindi ed è bene che rallenti per prudenza, e magari avere un po' di prudenza in più non guasta mai. Comunque, ecco, le rotatorie hanno ridotto del 50% gli incidenti, le vittime sono diminuite dell'80%, i feriti del 90%. Il comune che ha maggiore, che ha utilizzato di più questa particolarità nell'organizzare il traffico, è Cattolica, in provincia di Rimini. Grazie alle rotatorie è passato da 1.800 a 300 incidenti stradali in un solo anno. Ecco, quindi il richiamo anche di Repubblica è quello di cercare di guidare, ovviamente come sempre, con prudenza, ma di utilizzare anche al meglio queste nuove formule appunto di organizzare la circolazione, perché possono ridurre, e come dimostrano i fatti riducono drasticamente, gli incidenti. Un'altra notizia di utilità, diciamo, sociale, la prendiamo dall'Unità: cambiano disoccupazione e mobilità, arriva l'ASPI, cioè dal 1 gennaio, dal 2013, la riforma del mercato del lavoro voluta dal ministro Elsa Fornero, di cui vi ricordo c'è un'intervista sul Messaggero, ecco, introduce questa nuova assicurazione contro la disoccupazione. Si applica a tutti i dipendenti del settore privato e a quelli pubblici a termine, e prevede almeno per i primi 6 mesi un sostegno al reddito più pesante dell'attuale indennità, erogato per un periodo più lungo per la disoccupazione, ma drammaticamente più corto per chi va in mobilità. L'ASPI sarà erogata per 12 mesi a fronte degli 8 attuali per il sussidio di disoccupazione se si hanno meno di 55 anni, per 18 mesi se si è over 55. L'importo dell'indennità passa per 6 mesi dal 60% della retribuzione attuale al 75%, ma con un tetto massimo di 1.119 euro. Un'altra curiosità viene dal Giornale: rivoluzione tecnologica, non è mai troppo tardi per finire in rete. Abbiamo parlato a lungo del tweet di Mario Monti, i grandi vecchi catturati dall'high-tech. La regina in 3D, il papa su Twitter, la Ayatollah su Facebook, se i mostri sacri stanno al passo con i tempi. E qui appunto si ricorda il fatto che lo stesso Benedetto XVI ha aperto un suo account, come si dice, spero di non sbagliare, su Twitter, in cui ogni giorno, ogni settimana, non so ancora, manda i suoi messaggi. Ci fermiamo qui per la rassegna stampa, ci sentiamo alle 8:15 o poco dopo per entrare nel vivo dei temi politici e per fare un bilancio di queste vacanze di Natale. A più tardi.